Qualche giorno fa è venuta a chiedere una benedizione una donna molto distinta, musulmana. Abita in Italia per lavoro, ha un posto di responsabilità e mi dice: io mi sento disturbata da degli spiriti, mi dà una benedizione? Ho detto: guarda che io sono un prete cattolico, ti darò la benedizione nel nome di Gesù e con la sua croce, va bene. Ma perché non sei andata dai tuoi imam? Io sono turca e sono andata in Turchia, sono andata dal mio imam, ma l'unica cosa che mi ha detto è di leggere tutti i giorni una pagina del Corano. Come mi ha detto questo, io subito ho pensato: e i miei cristiani? Ce ne tanti che leggeranno ogni giorno una pagina del Vangelo? Amici, come facciamo ad avere la mentalità di Gesù se non approfondiamo il suo Vangelo? Si va a scuola di tutto. Televisione è una scuola unica di cucina. Si va a scuola di sport. Bambini fin da piccolini fanno le leve calcistiche per andare a imparare a diventare tutti campionissimi. Si fa scuola di tennis, si fa scuola una volta anche di taglio e cucito, oggi. Ma si fa scuola della Bibbia? Certo che si fa. Peccato che i cristiani non la frequentino. Sentirete dire anche dagli avvisi parrocchiali i giorni, le ore in cui si fa scuola di Bibbia, o in una parrocchia o nell'altra, tanto spostarsi 1,5 chilometri non è un problema. Io fin adesso vi invito. Ma c'è già una scuola settimanale, e non è piccola cosa, ed è la messa domenicale, con la sua predica. È una piccola scuola della Bibbia. Io oggi con voi vorrei prendere in esame la prima lettura. Se avete il foglietto, vi invito a prenderlo. Le letture oggi non sono facilissime, però con un po' di attenzione, facendo una specie di caccia al tesoro, possiamo andare a trovare delle parole molto, molto belle. E la troveremo in questa prima lettura, Isaia, capitolo 63 dell'Antico Testamento, che è un libro della Bibbia non molto approfondito, eppure è un libro dell'amore di Dio e dell'infedeltà dell'uomo. È impressionante vedere le decine e le decine di volte in cui Dio manda un profeta, in questo caso Isaia, ma tutti gli altri profeti che avete imparato a conoscere. Il popolo anche si converte per poco, poi ritorna al peccato che la Bibbia stigmatizza come il più grave di tutti, lo chiama adulterio, ed è il tradire il proprio Dio per altre divinità. Noi potremmo metterci alla scuola anche dell'Antico Testamento per imparare, come oggi, restare fedeli al nostro Dio e non tradirlo per le altre divinità di cui il mondo è pieno. Non avrai altro Dio all'infuori di me, eppure il mondo è pieno di tante, tante, tante divinità, a cominciare dal proprio io. Non ho tempo. Dunque, qui vi voglio leggere qualche passaggio in cui emerge la tenerezza di Dio. Sì, amici, è la parola che mi viene più spontanea. Dio ci ama di un amore tenero. Sentite. Isaia parlò dicendo: voglio ricordare i benefici del Signore, le glorie del Signore, quanto Egli ha fatto per noi. Egli è grande in bontà per la casa di Israele. Egli ci trattò secondo la sua misericordia e disse: ah, certo, questi qui sono il mio popolo, sono miei figli e non mi deluderanno. Amici, senti un padre che parla, un genitore che dice: ma io ricolmo di bene i miei figli, sono la mia carne, certamente non mi deluderanno. E continua: non un inviato e neanche un angelo, ma Egli stesso si è mosso dal cielo per salvarli. Bisognerebbe avere in mano un abiro per sottolineare: con amore e compassione. Che grande termine, la compassione. Il patire con passione. Li ha riscattati, li ha sollevati, li ha portati su di sé. Fine primo tempo. Reazione: ma essi si ribellarono e contristarono il suo Santo Spirito. È la storia ancora oggi. Vieni fuori da una malattia dove hai chiesto a preti, a suore, a amici di pregare, ti è andata bene. Oh, don grazie delle preghiere, mi dice un giovane carpentiere. Stava lavorando su con la pistola sparachiodi, inavvertitamente si spara un chiodo in pancia. Oh Signore, mi telefona la mamma: don, prega, prega. Poche ore dopo mi dice: la Madonna ha tenuto la mano su di lui, non ha toccato nessun organo. Domani lo mandano a casa. Uno torna a casa e dice: mamma mia, mi è stata resa la vita, adesso mi converto. Sì, è facile. È facile. Ma essi si ribellarono e contristarono il suo Santo Spirito, perciò egli divenne loro nemico e mosse loro guerra. Anche questo passaggio è importante, amici, perché Gesù, Dio, è un maestro. Hai sbagliato? Paghi. D'altra parte lo facciamo anche noi se siamo bravi educatori, no? Amici, io starei qui a raccontarvi la mia storia tutti i giorni, ma non invento niente. È possibile incontrare un papà laureato che mi dice: mio figlio ha il demone del denaro, gli dia una benedizione, finora mi ha speso 100.000 euro. E dico: ma tu sei impazzito? Un buon educatore sa mettere dei paletti e Dio lo fa. D'altra parte, amici, anche noi diciamo tante volte, lo diciamo male, ma quando puniamo qualcuno diciamo: così impari. Purtroppo lo diciamo in maniera sbagliata, quello non impara niente. Ma la parola "così impari" è giusta. Ti do questo castigo, così tu impari. E Dio lo punisce. E quello ritorna a pentirsi e ritorna a Dio. Andiamo all'ultima riga di questa pagina 2 del foglietto. Guarda dal cielo e osserva dalla tua dimora santa e gloriosa. Il profeta si rivolge a Dio. Dove sono il tuo zelo e la tua potenza, il fremito delle tue viscere e la tua misericordia? Ma amici, non vi rendete conto che belle parole rivolte a Dio? Il Signore ha viscere di misericordia. Dove sono il tuo zelo, la tua potenza, il fremito delle tue viscere e la tua misericordia? Non solo, aggiunge ancora un'altra parola, non costringerti, non forzarti all'insensibilità, perché tu sei il nostro Padre. Ma che bello, amici, non so se li gustate anche voi come li gusto io queste righe. Il profeta dice a Dio: dai, ma non stare arrabbiato, che tu non lo sei, che tu sei Padre. Perché fai finta di tenere così? Non forzarti all'insensibilità, perché sei nostro Padre. E l'ultima riga, ma come sarebbe bello percorrere tutto. Venite quando vi dirò che si fa una scuola della Bibbia, venite, venite. Ritorna per amore dei tuoi servi, per amore delle tribù che sono la tua eredità. Che bello, amici. Signore, ritorna a noi perché siamo la tua eredità. Io vi auguro, cari cristiani, di andare alla scuola della Bibbia, della parola di Dio, per capire le viscere di Dio, per capire il cuore di Dio. Solo così potremo dire di avere fede.